buonasera, sono solo una battuta. Ciao Gianni, non più lungo. Buonasera a tutti. Oh, ecco, ma che ti ravvisi? Non farete prendere, è stato felice. Ah, sono cose che non ho fatto io, però capisco. Non so, ma nella vita c'erano altri felici, altre cose, non so se non la fate. Per cui la radio la usavo solo per rilassarmi. Questo Dio, ecco, la radio mi serve per rilassarmi, non per farmi incazzare. Dai, è un momento, un miracolo, io siccome posso commentarmi, io sono un signore, faccio la radio come si deve, la persona come si deve, se gli altri vogliono usare per mettere un canto, e non un fondo, tanto io, se posso mandare un altro, ci troverò a fare lo stesso, e poi faccio un po' di rispetto a tutti gli altri. Se ascoltano mi fanno piacere, se gli dice qualcuno di questo, ma c'è la cassetta io. Ma è perché ho la partita, mi fanno piacere. No, grazie, te lo dico, no, che sono qualcuno, se sta messo tornata, grazie. Se tu dici a una persona, ma comunque non ce ne frega niente. Thank you. per scambiare che ci sono anche a vabbè, siamo tutti di scegliere la città. Capito, ma negativo. Parla di rifiuti, se tutto a posto. Segnale c'è buono, ma non c'è radio. Tutto a posto, lo squeggi, controllati tutto perché